in primo piano. Buongiorno a tutti. Aperture fotocopia per i giornali italiani di oggi sull'argomento al quale ha già accennato Alessandro e che, di cui parlerà più tardi con il ministro Brunetta, e cioè il progetto di riforma che prevede che le donne dipendenti pubbliche vadano anch'esse in pensione a 65 anni come gli uomini. Il Corriere della Sera, statali, donne in pensione a 65 anni, La Repubblica, donne in pensione a 65 anni, La Stampa, le statali in pensione a 65 anni, Il Sole 24 Ore, pensioni, 65 anni per le statali. L'argomento è sicuramente di grandissimo interesse ed è comprensibile che i grandi giornali l'abbiano tutti scelto per le loro aperture. Ricordiamo en passant che l'Italia è praticamente l'unico paese in cui tutti i giornali abitualmente aprono con lo stesso argomento. Negli altri paesi solitamente i giornali seguono dei loro filoni in qualche modo autonomi, cioè in prima pagina sicuramente, la prima pagina viene sicuramente usata come vetrina per le notizie più importanti di giornata, ma normalmente le aperture sono dedicate a temi, diciamo, più mirati rispetto al pubblico che ogni quotidiano si è costruito nel tempo. Torniamo sul tema delle donne in pensione a 65 anni, leggiamo dal Corriere: un aumento graduale dell'età pensionabile delle donne che lavorano nella pubblica amministrazione a partire dal 2010, per arrivare a quota 65 anni nel 2018. È quanto prevede la bozza proposta del governo che è stata inviata alla Commissione europea. È un inaccettabile accanimento contro le donne nascosto dietro l'ipocrisia della cosiddetta gradualità, reagisce la CGIL, che lancia anche un allarme: circa 400.000 precari statali potrebbero rischiare il posto di lavoro a causa del decreto che blocca la stabilizzazione dei lavoratori flessibili nel comparto. La metà di loro è impegnata nella scuola. Fanno eccezione alla grande maggioranza dei giornali di oggi, come sempre, alcune altre testate che decidono di aprire su argomenti diversi. Il Giornale: effetto Franceschini, si scioglie il PD. Il cambio di segretario non frena il crollo dei democratici. I sondaggi li danno ormai al 22%. Ne approfitta Di Pietro all'8 e ora rischia la chiusura anche l'Unità. Oggi non sarà in edicola. Libero: scritti inediti dagli archivi. Trovato il diario di Claretta che racconta il duce innamorato. Sono schiavo della tua carne. Cerchiamo di non dare spettacolo. È un'anticipazione di un colpo giornalistico del settimanale Oggi. Infine il Riformista. Silvio maglia nera. Non è vero che l'Italia va come gli altri, va peggio. Il nostro PIL è l'ultimo tra i 7 grandi e ora rischiano il lavoro 400.000 precari della pubblica amministrazione. In campo economico, l'altro tema di una certa importanza mi sembra quello relativo all'auto, uno dei settori più colpiti dalla crisi e più problematico anche per la sua rilevanza strategica nei grandi paesi industriali. Ieri si è aperto il Salone di Ginevra, uno dei più importanti al mondo. Ovviamente c'erano tutti i grandi protagonisti, grande spazio alle dichiarazioni dell'amministratore delegato della Fiat, Sergio Marchionne. Leggiamo dal Sole 24 Ore l'inizio dell'articolo dell'inviato Andrea Malan. Non possiamo continuare a competere con le mani legate. Gli aiuti vanno dati a tutti o a nessuno. Sergio Marchionne, amministratore delegato della Fiat, arriva di mattina al Salone di Ginevra e getta subito il sasso nello stagno. La crescente diffusione di aiuti pubblici all'industria è a suo parere una palese distorsione della concorrenza. a cominciare dai 6 miliardi di prestiti agevolati che Parigi ha concesso a Peugeot e Renault. Quando i due maggiori produttori francesi ricevono 6 miliardi di euro, la Fiat è messa con le spalle al muro, ha detto Marchionne. Non possiamo fare a botte con le mani legate. Come ho detto fin dall'inizio della crisi, gli aiuti bisogna darli a tutti o a nessuno. Capisco il governo francese, ha osservato ancora Marchionne, e adesso la UE ha detto che non violano le norme sulla concorrenza, ma allora io e la commissaria Kroes, che è la commissaria europea competente per la concorrenza, dobbiamo avere due idee diverse della concorrenza. Peugeot e Renault non sarebbero mai riuscite ad avere i soldi a quei tassi. Il tema dell'auto ci porta direttamente a Torino e al riguardo vale la pena soffermarsi su un approfondimento, un articolo di approfondimento che La Stampa ha a pagina 19. Il titolo è La banlieue bianca che infiamma Torino. Auto, case, cassonetti, centinaia di roghi in due mesi. È la rabbia degli italiani. Scrive Niccolò Zancan in questo reportage appunto dalla capitale italiana dell'auto. Dopo due mesi di fuoco, rabbia, ronde, arresti e un conto dei danni in continuo aggiornamento, la verità è poco edificante. Nessuno ha ancora capito quello che sta succedendo a Torino. Brucia la città, continua a bruciare, ogni notte una corsa contro il tempo, in media tre allarmi alla centrale operativa dei Vigili del Fuoco, sei incendi solo lunedì, 176 roghi dal 1 gennaio. Auto e cassonetti soprattutto, ma anche muri di chiese, abitazioni, fumo acre negli androni. L'epicentro della paura è Barriera di Milano, il nuovo quartiere multietnico di Torino, per molti la vera frontiera per capire quello che sarà di noi. Ora succede che qui, scrive ancora Zancan sulla Stampa, proprio qui, nei vecchi palazzi dove negli anni 70 affiggevano cartelli con scritto «Non si affitta ai meridionali», i fuochi si stanno mischiando a nuove rabbie, disoccupazione, povertà, sentimenti grevi, ansia di vendetta, fuochi di banlieue, come alla periferia di Parigi. Ma da noi sono ragazzi italiani quelli che stanno dando segni di grave insofferenza, dice il presidente del quartiere, Gigi Malaroda, non gli immigrati di prima o seconda generazione. Sicuramente vicende su cui vale la pena di fare qualche riflessione. Per quanto riguarda la pagina degli esteri, direi che il tema di maggiore rilevanza dal punto di vista della cronaca di ieri è l'attacco terroristico alla nazionale di cricket dello Sri Lanka in Pakistan. Sembrano temi lontani da noi, dai nostri interessi, in realtà sono molto vicini, se non altro perché abbiamo 2.800 militari in Afghanistan e il Pakistan è un paese chiave per quanto riguarda le strategie e la diplomazia di quell'area. Secondo, perché il tema dell'attacco allo sport è un tema che ritorna periodicamente, sicuramente è uno dei mezzi più importanti per colpire al cuore un paese e colpire l'attenzione dell'opinione pubblica. Teniamo presente che per il Pakistan, come per altri paesi dell'area, il cricket è come da noi il calcio. Leggiamo dal Sole 24 Ore Marco Masciaga. Con un'azione destinata ad accrescere ulteriormente l'isolamento internazionale del Pakistan, un comando terroristico ieri ha assaltato il convoglio che stava portando la nazionale di cricket dello Sri Lanka allo stadio di Lahore, ferendo 6 giocatori e uccidendo almeno 8 persone. Al termine di una battaglia durata una trentina di minuti sono rimasti uccisi 6 poliziotti della scorta, mentre nessuno dei 10 assalitori, apparentemente di età compresa tra i 20 e i 30 anni e muniti di armi automatiche, bombe a mano e lanciagranate, è stato ucciso o fermato. Il colpo inferto ieri al mondo del cricket pakistano non poteva essere più duro, scrive lo stesso Masciaga in un altro articolo. Quando gli attentatori di Lahore hanno attaccato il convoglio che stava scortando la nazionale dello Sri Lanka, non hanno preso di mira una squadra qualunque. hanno colpito uno dei pochi team ancora disposti a superare i rotoli di filo spinato per mettere in scena uno spettacolo fatto di eleganza e fair play in mezzo alle rovine di un paese alla deriva. La presenza Lahore della Nazionale di Colombo era il frutto della solidarietà di un paese amico che in passato ha fatto per primo i conti con l'isolamento generato dalla minaccia di attentati. Lo Sri Lanka ha accettato solo poche settimane fa di affrontare questo tour per soccorrere il Pakistan Cricket Board, che dopo gli attentati di Mumbai si era visto cancellare l'attesa visita della nazionale indiana e con essa i contratti televisivi milionari che in questa parte del mondo fanno da corollario a ogni match. Per quanto riguarda gli esteri, tornando a temi di carattere economico, il Corriere a pagina 8 ospita un servizio, un reportage del corrispondente del Corriere dalla Gran Bretagna, Fabio Cavalera, sull'Irlanda. Ricordiamo che l'Irlanda è stata a lungo definita la tigre celtica, il parallelo era con le tigri asiatiche che hanno tirato a lungo, hanno guidato a lungo la corsa allo sviluppo economico in quell'area. Ecco, l'Irlanda era la tigre celtica, era il paese che per tanti anni si è sviluppato più degli altri, è cresciuto più degli altri, ha attirato investimenti esteri più degli altri. Ecco, oggi questo paese è in difficoltà, in crisi, è uno dei due paesi della vecchia Europa, insieme alla Grecia, ad essere in grosse difficoltà, e il Corriere ci racconta che cosa è successo. Consumata dal consumismo, comincia così l'articolo di Fabio Cavalera sul Corriere, dedicato alla crisi in cui è rapidamente precipitata l'Irlanda. La signora Mary McAleese, presidente dell'Irlanda, ha spiegato con queste parole, appunto consumata dal consumismo, il crollo della tigre celtica. Avendo alle spalle due professioni come quelle di avvocato e di giornalista, Mary McAleese, in carica ormai da una dozzina d'anni, ha saputo sintetizzare con efficacia ciò che è accaduto in un paese considerato fino a qualche mese fa un esempio virtuoso per tutta l'Europa. Dublino si è ritrovata di punto in bianco a dover ripartire da zero. Aveva scalato le classifiche delle migliori performance economiche a livello continentale. Il suo PIL fino al 2007 cresceva annualmente del 7%. Ma alla fine si accorge che è stata solo una finta, una gigantesca bolla che una volta scoppiata lascia in eredità un cumulo di macerie. È vero, gli irlandesi negli ultimi 10 anni, scrive ancora Cavalera sul Corriere, hanno consumato come pochi altri al mondo, ma in maniera speculare si sono pure indebitati come pochi altri al mondo, consumati dal consumismo, analisi impietosa che calza alla perfezione. Le stime ufficiali dicono che, mediamente, ogni contribuente è oggi scoperto per 100.000 euro. La montagna complessiva per i 4 milioni di cittadini della Repubblica è dunque di 400 miliardi di euro. E siccome sono soldi che non si vedranno mai più, lo Stato deve correre ai ripari, perché l'effetto moltiplicatore è drammatico. Un altro argomento che tiene banco anche sulle prime pagine, ma soprattutto sulle pagine interne, è il caso Mourinho. Mourinho, come molti di voi sanno, è l'allenatore contestato, ammirato, amato, odiato dell'Inter. Mourinho è ritornato ieri sulla partita con la Roma di domenica sera e sul rigore concesso per l'atterramento di Balotelli in area. Balotelli si è buttato, non si è buttato, il rigore era giusto, era sbagliato. Su questo ovviamente nella serata di domenica, nella giornata di lunedì, scusate, ci sono state molte prese di posizione. Mourinho ieri le ha commentate. Così, leggiamo dalla Stampa, pagina 46, nell'articolo di Laura Bandinelli. La manipolazione intellettuale è stata un successo. Negli ultimi 2 giorni, infatti, non si è parlato d'altro. Non si è parlato di una Roma con grandissimi giocatori, con tanti giocatori che io volevo con me e che finirà la stagione con 0 titoli. E non si è parlato di una Juventus che ha conquistato tanti punti, ma tanti di questi grazie ad errori arbitrali. Non si è parlato di un Milan che finirà la stagione con zero titoli e con giocatori che hanno cultura vincente e tutto ciò di cui una squadra ha bisogno per vincere. Va detto che Mourinho ha rapidamente acquisito una capacità di usare le parole della lingua italiana davvero sorprendente. Sull'argomento interviene, commentandolo sempre sulla stampa in prima pagina, Giancarlo Dotto. Il titolo è Mourinho, lo sgarbi anti-Juve. Dipende da quello che sei, scrive Dotto. Se sei un tifoso interista, da ieri stai lì, torace al vento, che esulti nei blog e nei bar, che saluti il tuo nuovo messia al motto di siamo uomini o caporali, inneggiando al metallo puro di cui sarebbero fatti i suoi attributi. Diverso, molto diverso, se sei un tifoso di Juventus, Milano, Roma, soprattutto se sei il loro allenatore. Smaltito lo stupore e poi l'attacco di bile, inevitabile darsi al libero sfogo di fantasie confessabili, del tipo come deformare quel faccino simmetrico da stereotipo cinematografico. Meglio ancora sarebbe bastonarlo sui denti, secondo il noto auspicio di un dirigente del Catania, qualche tempo fa pure lui trafitto dalla parola assassina dello Zorro di Setúbal. Continua nel giro a pagina 37 Giancarlo Dotto. Se sei invece il direttore di un qualsiasi organo di informazione, non puoi che fregarti le mani e dire questo Mourinho, se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Ora, siccome l'hanno inventato, qualunque cosa tu sia, ci devi fare i conti. A partire da noi, prostituti del bordello mediatico, questa è la parola, una delle parole utilizzate ieri da Mourinho, attivando un pensiero che fino a ieri pensavamo immodestamente fosse il nostro, ma ora sappiamo essere invece un disprezzabile scarto, manipolato o manipolatorio, forse entrambe le cose, non si è ben capito. Su questo il tranchant Mourinho è sembrato un po' confuso. Un argomento meno leggero sicuramente riguarda un aspetto che si è aperto ieri in modo abbastanza drammatico per i colleghi sul fronte dell'editoria. L'Unità oggi non è in edicola per uno sciopero che hanno proclamato i suoi giornalisti. L'Unità sta infatti correndo rischi gravi, alcuni dicono anche di sopravvivenza, ma certo, come dire, non ci sono fondi, non ci sono risorse, non ci sono soldi a sufficienza. L'Unità deve fare i conti con l'esigenza di tagliare drasticamente i suoi costi e questo a pochi mesi dal rilancio e dalla nuova direzione affidata a Concita De Gregorio solleva qualche dubbio, qualche perplessità, qualche legittima domanda. Sul tema interviene in particolare con un articolo in prima pagina sul Riformista l'ex di Repubblica Giampaolo Pansa. Gramsci nel cuore e il suo giornale usato come un taxi. Questo è il titolo dell'articolo di Pansa. È inutile cercare un retroscena canaglia nella crisi dell'Unità. Tutto è chiaro, nei limiti del romanzo giallo. I grandi racconti polizieschi ti mettevano sotto gli occhi possibili colpevoli di un delitto, ma sino all'ultima pagina non lasciavano capire chi, tra i sospettati, fosse quello giusto. Anche in questo caso, scrive Pansa, gli indiziati sono tre. Il primo è l'ex leader del Partito Democratico Walter Veltroni. Il secondo è l'attuale padrone del giornale, Renato Soru. Il terzo, non sorprendetevi, è la Repubblica di Ezio Mauro. Sul primo indiziato si conosce quasi tutto, a cominciare dalla conclusione della sua avventura politica. Il perdente di successo ormai è uscito di scena dopo uno tsunami di sconfitte elettorali, ma era stato lui il padrino dell'ultima rinascita dell'Unità, a cominciare dalla scelta del direttore, Concita De Gregorio. Veltroni l'aveva fortemente voluta, soprattutto perché era una donna, e per di più bella, elegante, spigliata. Chi fosse interessato a leggere il seguito del pezzo di Giampaolo Pansa lo trova sul Riformista di oggi. Un'ultima segnalazione prima di lasciarvi, a pagina 39 del Corriere, questo è uno dei temi a cui tengo molto, quindi mi piace segnalare l'uscita di un saggio di Piero Stellino intitolato Lo Stato Canaglia, edito da Rizzoli, che trovate in libreria. Italia, nazione di sudditi, allergica al liberismo, l'arte di arrangiarsi sotto il giogo dello Stato Canaglia. Questo è il titolo dell'articolo del Corriere che dà il senso del saggio di Ostellino. Con questo è tutto, vi ringrazio, buona giornata.